la lezione. È solo chiacchiere distintivo. Solo... 22:59 minuti primi di frequenza di Radio Onda Rossa. 87,9 della banda romana e laziale. Vabbè, qui c'è tutto in subbuglio perché questa sera c'è un ospite che non sa parlare nessuna delle lingue a noi conosciute. Quindi abbiamo degli importanti difetti di comunicazione, quindi vi lasceremo un attimo dopo la sigla con qualche traccia per cercare di preparare tutto, anche la comunicazione con l'ospite. Five o'clock, possiamo dirlo senz'altro, la trasmissione più cazzara che c'è a Radio Onda Rossa. Ma no, intelligente, capito? Come ci stanno delle trasmissioni che sono, no? Penso a Io te l'avevo detto, insomma, le trasmissioni gente che fatta da gente intelligente che si sa muovere in diretta, sa aspetta, vai. No, dico magari con un certo pensiero, una certa preparazione, voglia di inanellare un qualcosa. Poi non niente, si inanella niente, nulla. Niente. È proprio un vuoto cosmico, pneumatico. Si rompono gli anelli. E non è che dici, sai, vabbè, sono giovani, non c'hanno esperienza. Nemmeno quella scusante. È proprio così. Potere del caos. Sì, che... sì. Anche negligenza, direi. Vabbè, insomma, questa è Radio Onda Rossa, nonostante noi. Quindi non fatelo per 25 o'clock, però per il resto della programmazione della radio, ma mantenete in vita questa radio, lo state facendo da 44 anni. Dal 1977 Radio Onda Rossa vive grazie al vostro contributo di compagni e compagni, ascoltatori e ascoltatrici, per cui andate sul sito, mettete mano al portafoglio, cliccate su, proprio nell'ordine, andate sul sito, mettete mano al portafoglio, cliccate su il banner in alto che è quello della campagna 30 per 1000, cliccate dentro, compilate i format che sono necessari, fate il pagamento come volete, però insomma mantenete in vita questa radio perché è importante che ci sia una voce che dà spazio alle contraddizioni del mondo e del potere che governa questo mondo, che le metta in evidenza, che gli dia luce. Sul sito stesso della radio troverete anche tutte le corrispondenze e i podcast che la radio produce. Ormai è fine luglio, Elettrodo ha detto che per quest'anno, diciamo, la termina qui, poi si riparte a settembre. Noi non sappiamo ancora se la prossima settimana vorremmo fare un'incursione manipolando delle cose che forse ci potrebbero essere un po' più congeniali, cioè i vinili. Però insomma questo, vabbè. Nel caso verremo presto al posto di prove tecniche di trasmissione, non promettiamo nulla. Le vostre comunicazioni alla radio Onda Rossa, chiocciolondarossa.info, è la mail della radio, ci stanno anche tutti i vari social che conoscete molto meglio di noi per comunicare, per interloquire, per parlare con la radio, per chiedere notizie sulle tracce che sono andate in onda. Lo fate spessissimo perché siete molto attenti e attente. 25oclock@rondarossa.info invece per insultare o mandare delle vostre proposte allo spazio che state ascoltando. 06491750, il recapito telefonico di Radio Onda Rossa da sempre. Poi una volta c'era pure il fax, mi piaceva tanto, forse me lo ricordo pure a memoria, se ci impegnassimo, ma non abbiamo voglia, fa troppo caldo. Vabbè, insomma, dobbiamo riempire il buco e iniziamo con la prima traccia di cui ci eravamo ripromessi in scaletta, ma poi qualcos'altro succederà. Marmellata, eri piccola. Ma non era questa, non era proprio questa, è sbagliata completamente. Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu! Per cui direte, vabbè, si è sbagliato, Fred Buscaglione, boh. Facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito. E invece era proprio Fred Buscaglione che volevamo mandare, ma non era questa la traccia, per cui sull'altro CD è pronta Onda Rossa 25oclock, Fred Buscaglione, dato che ora è notte, che notte! Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Bucla peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO. Li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte. Carina, graziosa, bambina, come soffro! Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. graziosa. Graziosa! Nessuna donna al mondo è più graziosa. Graziosa! Perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina! Carina! Allegra e spensierata, sei carina. Carina! Ma con il broncio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina, carina, carina, tu sei fatta per amare. Carina. Esta è la canzone de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa. Porfirio! Che, me conosci? Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere. Era un piacere. Ora invece Porfirio Villarosa todo il giorno se riposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede. E così per salvarsi un po' le spese lui deve divorziare 3 volte al mese. Olè olè Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli all'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su 2 piedi la viscosa, bello bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed or la grana lui ce l'ha. Sì, Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le inguai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, alle dive sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, come fai? Olle, olle, Porfirio Villarosa è soltanto più un ricordo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì. Anda, anda. Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le inguai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, come fai? Olle, olle, Porfirio Villarosa è soltanto più un ricordo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.

Una spedizione quasi si stava sull'esterno circa 29 anni fa. Il comandante era mio padre, signore. La nave sparì circa 16 anni all'inizio della missione. Nessun dato fu mai recuperato. Le missioni nello spazio profondo cessarono proprio là. Qui abbiamo una cosa che dovrebbe risultare scioccante. Riteniamo che suo padre sia ancora vivo, vicino a lei. Mio padre è vivo, signore. Pensiamo che sia. Per noi il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Il progetto lì è tuo. Mio padre è vivo, signore. Pensiamo che sia. Per noi il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Il progetto Lima era alimentato da antimateria e suo padre ne era il capo. Per Roy il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Il progetto Lima. Per Roy il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Per Roy sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Padre, vivo signore, pensiamo di sì. Roy, il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Il picco sembra essere la conseguenza di una specie di reazione all'antimateria. Il progetto Lima era alimentato da antimateria e suo padre ne era a capo. Stiamo parlando di una potenziale reazione a catena inarrestabile. Il rilascio incontrollato di antimateria potrebbe minacciare la stabilità del nostro intero sistema solare. Capo. Stiamo parlando di una potenziale reazione a catena inarrestabile. Potrebbe minacciare la stabilità del nostro intero sistema solare. Materia potrebbe minacciare la stabilità del nostro intero sistema solare. ogni forma di vita potrebbe essere distrutta. Le perse sono arrivate. Come? La sonda le ha immagazzinate nella cache. Anni di dati senza nessuna vera sorpresa. La stazione di Miller ha mandato pollici in su, quella del dottor Mann. Quella di Edmunds ha smesso 3 anni fa. Problemi al trasmettitore? Può darsi. Le ha mandate fino a quando il segnale si è spento. Ma Miller lo promette ancora bene, giusto? Perché siamo così lì. C'è una sola complicazione. E il pianeta è molto più vicino a Gargantua di quanto pensassi. Gargantua? Ha il nome dato al buco nero. I pianeti di Miller e del dottor Mann c'è ovviamente. E quello di Miller è il suo orizzonte. Come una palla da basket su un canestro. Atterrando lì saremo pericolosamente vicini. E un buco nero così grande ha una attrazione gravitazionale enorme. Potrei girare intorno a quella stella di neutroni per decelerare. Non è quello, è il tempo. La gravità aumenterà il nostro orologio rispetto a quello della Terra. Drasticamente. Quanto drasticamente? Beh, ogni ora passata su quel pianeta sarebbero 7 anni sulla nostra Terra. Dio santo. E questa è la relatività, ragazzi. Sì, no, non possiamo semplicemente atterrare senza... Cooper, abbiamo una missione. Sì, Doyle, abbiamo una missione. E la nostra missione piano A è trovare un pianeta che possa accogliere la gente che vive sulla Terra adesso. Non pensare solo alla tua famiglia, devi pensare in grande, non credi? Sto pensando alla mia famiglia e a milioni di altre famiglie, ok? Il piano A non funziona se la gente sulla Terra muore prima che l'abbiamo completato. No, infatti, ecco perché c'è un piano B. Ok, Cooper ha ragione. Dobbiamo considerare il tempo una risorsa, come cibo e ossigeno. Scendere lì ci costerà. Sentite, i dati del dottor Mann sono probabili, giusto? Ma ci vorranno mesi per arrivare lì. E Edmunds è ancora più lontano. Miller non ha detto molto, quello che ha detto è molto promettente. C'è acqua, composti organici. Non si trovano tutti i giorni. No, davvero. E pensa a tutte le risorse, incluso il tempo che servirebbero per tornare qui. Amelia, sì. Quanto dobbiamo stare lontano dal pianeta di Miller per evitare lo slittamento temporale? Solo lontano dalla costa. Va bene, qui, appena fuori dal pianeta di Miller. Giusto. Qui c'è Gargantua e qui il pianeta di Miller. Se portiamo l'Endurance in orbita intorno al pianeta di Miller e risparmiamo carburante, perdiamo molto tempo. Potremmo fare un'orbita maggiore intorno a Gargantua, ma solo a quella del pianeta di Miller, evitando lo spasamento temporale. Sì. Portiamo giù il prendiamo Miller, Gargantua, torniamo, analizziamo, vediamo la sua orbita terza. Perdiamo un po' di carburante, ma risparmiamo molto tempo. Funziona. Così sì. Non ci sarà tempo per chiacchiere e puffonate. Quindi Tars, tu sicuramente sei meglio. Ok, tu vieni con me. Gli altri possono restare. Se stiamo parlando di un paio d'anni, potrei usare il tempo per studiare la gravità e dare così dentro un buon polso oro. Tars, predisponi un'orbita per Gargantua. Risparmia carburante, vieni al minimo della propulsione, ma resta a portata del pianeta di Gargantua. Non ti abbandonerei mai. Dottor Brenner. Comunicazioni perse sono arrivate. I dati del dottor Mann sono promettenti, giusto? Ma ci vorranno mesi per arrivare lì. E Edmunds è ancora più lontano. Miller non ha detto molto, ma quello che ha detto è molto promettente. Non pensare solo alla tua famiglia, devi pensare in grande, non credi? Sto pensando alla mia famiglia e a milioni di altri. Ok, il piano A non funziona se la gente sulla Terra muore prima che l'abbiamo completato. Pronti, infatti. E la nostra missione pianovare è trovare un pianeta che possa accogliere la gente che vive sulla Terra. Non pensare solo alla tua famiglia, devi pensare in grande. Credi, sto pensando alla mia famiglia e a milioni di altri figli. Ok, il piano allora funziona. Se la gente sulla Terra muore prima che l'abbiamo completato. No, infatti. Ecco perché c'è un piano B. E la nostra missione pianovare è trovare un pianeta che possa accogliere la gente che vive sulla Terra. Non pensare solo alla tua famiglia, devi pensare in grande. Credi, sto pensando alla mia famiglia e a milioni di altre famiglie. Ok, il piano A non funziona se la gente sulla Terra muore prima che l'abbiamo completato. No, infatti. Ecco perché c'è un piano B. Ok, Cooper ha ragione. Dobbiamo considerare il tempo una risorsa, come cibo e ossigeno. Scendere lì ci costerà. Sentite. I dati del dottor Mann sono promettenti, giusto? Ma ci vorranno mesi per arrivare lì. E Edmunds è ancora più lontano. Miller non ha detto molto, quello che ha detto è molto promettente. C'è acqua, composti organici. Non si trovano tutti i giorni. No, davvero. E pensa a tutte le risorse, incluso il tempo che servirebbero per tornare qui. Robin, sì, quanto dobbiamo stare lontano dal pianeta di Miller per evitare lo slittamento temporale? Solo lontano dalla costa. Va bene, e qui appena fuori dal pianeta di Miller. Giusto. Ok. Qui c'è Gargantua e qui il pianeta di Miller. Se portiamo l'Endurance in orbita intorno al pianeta di Miller risparmiamo carburante ma perdiamo molto tempo. Potremmo fare un'orbita maggiore intorno a Gargantua parallela a quella del pianeta di Miller evitando lo sfasamento temporale. Fino a qui. Portiamo giù il Ranger, prendiamo Miller e i suoi campioni, torniamo, analizziamo, tiriamo le somme, toccate fuori. Perdiamo un po' di carburante, ma risparmiamo molto tempo. Funziona. Così sì. Non ci sarà tempo per chiacchiere e buffonate laggiù, quindi Tars, tu sicuramente rimani qui. Ok, prendiamo Miller e i suoi campioni, torniamo, analizziamo, tiriamo le somme, toccate fuga. Perdiamo un po' di carburante, ma risparmiamo molto tempo. Funziona. Così sì. Non ci sarà tempo per chiacchiere e buffonate laggiù, quindi Tars, tu sicuramente rimani qui. Case, tu vieni qui, tu sicuramente rimani qui. Buffonate laggiù, quindi Tars, tu sicuramente rimani qui. Così sì. Non ci sarà tempo per chiacchiere e buffonate laggiù, quindi Tars, tu sicuramente. Prendiamo Miller e i suoi campioni, torniamo, analizziamo, tiriamo su, meducate e fuga. Prendiamo un po' di carburante, ma risparmiamo molto tempo. Funziona. Così sì. Non... Ehi, Cooper. Possiamo fermare la rotazione? Perché? Perché siamo abbastanza vicini per vederlo. Ok. Grazie. Ecco, ci siamo. È il buono. Senza annaffiarmi per ora, Melle. Non mi sfondo. Beh, ovviamente, cosa per... Pensavi fosse solo un buono. No, è che tutte le immagini che ho visto finora erano... Le immagini cercano di farti vedere come funziona. E quindi dicono, tu vuoi andare da qui a lei. Ma è troppo lontano, giusto? Allora un buono complica lo spazio così e ti dà una scorciatoia verso una dimensione di ordine superiore. Ok, quindi per dimostrarlo trasforma lo spazio tridimensionale in due dimensioni. In questo modo il buono in due dimensioni cerchio. Cosa diventa un cerchio in tre dimensioni? Una sfera. Esatto, un buco sferico. Per dimostrarlo, trasforma lo spazio tridimensionale in due dimensioni. In questo modo il wormhole in due dimensioni è un cerchio. Cosa diventa un cerchio in tre dimensioni? Una sfera. Per dimostrarlo, trasforma lo spazio tridimensionale in due dimensioni. In questo modo il wormhole in due dimensioni è un cerchio. Cosa diventa un cerchio in tre dimensioni? Una sfera. Eslo trasforma lo spazio tridimensionale in due dimensioni. In questo modo il wormhole in due dimensioni è un cerchio. Cosa diventa un cerchio in tre dimensioni? Una sfera. Esatto, un buco sferico. Ma chi l'ha messo lì? Chi dobbiamo ringraziare? Io non ringrazio nessuno finché non usciamo da questa serie a salvi. Qualche trucco, dai? Non lo sa nessuno. Gli altri ce l'hanno fatta, no? Per come ti hanno rovinato. Siamo pronti a salutare il nostro sistema solare. La nostra galassia. Ci siamo. Siamo qui. I dati di Edmund. Ragazzi, dovremmo arrivare a Wormwood tra circa 3 ore. Edmund, possiamo fermare la rotazione? Perché? Perché siamo abbastanza vicini. Grazie. Eccoci, ci siamo. Edmund. Si sono fermi. È una sfera. Beh, ovviamente, cosa per... pensavi fosse solo... Le immagini sarebbero fatte vedere come funziona. E quindi dico, tu puoi andare da qui? Da me. Ma è troppo lontano, giusto? Allora un uomo piega lo spazio così e ti dà una scorciatoia verso una dimensione di ordine superiore. Ok, quindi, per dimostrarlo, trasformano lo spazio tridimensionale in 2 dimensioni. In questo modo il wormhole in 2 dimensioni è un cerchio. Cosa diventa un cerchio in 3 dimensioni? Una sfera. Esatto. Un buco sferico. Ma chi l'ha messo lì? Chi dobbiamo ringraziare? Io non ringrazio nessuno finché non... Una sfera. Esatto. Un buco sferico. Ma chi l'ha messo lì? Chi dobbiamo ringraziare? Non ringrazio nessuno finché non usciamo da questa mia salvia. Non ringrazio nessuno finché non usciamo da questa mia salvia. C'è qualche trucco, no? Io non ringrazio nessuno finché non usciamo da questa mia salvia. C'è qualche trucco, Doyle? Non lo sa nessuno. Gli altri ce l'hanno fatta, no? Alcuni di loro almeno. Tutti pronti a salutare il nostro sistema solare, la nostra galassia. Tutti pronti a salutare il nostro sistema solare, la nostra galassia. Ce l'hanno fatta, con le galassie. Tutti pronti a salutare il nostro sistema solare, la nostra galassia. Thank you. passato troppo tempo cercando di risolvere tutto con la teoria. Sei uno scienziato. E allora ascoltami. Quando dico che e questo mi spinge a seguire il mio cuore. Ma forse abbiamo passato troppo tempo cercando di risolvere tutto con la teoria. Sei uno scienziato. Il cuore. Ma forse abbiamo passato troppo tempo cercando di risolvere tutto con la teoria. Sei uno scienziato. E allora ma forse abbiamo passato troppo tempo cercando di risolvere tutto con la teoria. Sei uno scienziato. E questo mi spinge a seguire il mio cuore. persone che sono morte. Qui non c'è un motivo che succede. Non c'è. O forse vuol dire qualcosa di più, qualcosa che non possiamo ancora afferrare. Magari una testimonianza, un artefatto di un'altra dimensione che non possiamo percepire consciamente. Io sono dal più qualcosa che non possiamo ancora afferrare. Magari una testimonianza, un artefatto di un'altra dimensione, almeno persone che sono morte. Che non c'è un motivo che succede. Non c'è. O forse vuol dire qualcosa di più, qualcosa che non possiamo percepire consciamente. Io sono dall'altra parte dell'universo, attratta da qualcuno che non vedo da un decennio, una persona che forse è morta. L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. Forse dall'altra parte dell'universo, attratta da qualcuno che non vedo da un decennio, una persona che forse è morta. L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda le dimensioni di tempo e spazio. Forse di questo dovremmo fidarci, anche se non riusciamo a capirlo ancora. Va bene, Cooper. Sì. Anche la minima possibilità di rivedere Wolf mi entusiasma. Non vuol dire che abbia perso il controllo. Onestamente, Amelia, sai, può darsi. Sono stabile, calmo. Ho dormito bene, nessun incubo. Sono attivo e impegnato. Sono attento a cosa mi circonda e a chi è nelle mie vicinanze. Sono vigile. Sono concentrato sull'essenziale a discapito di tutto il resto. Sono incerto sul futuro, ma non mi preoccupo. Mi affiderò agli affetti più cari e condividerò i loro fardelli, come loro i miei. Io vivrò e amerò. Inoltre, sono stabile, calmo. Ho dormito bene, nessun incubo. Sono attivo e... Prevedo il mio futuro. per poter tirarmi su. Quello di Miller. Ah, perché tu vuoi così? Non ti piace? Capricciosa, perché tu vuoi così? Non ti piacerebbe, ti dicessi sempre sì. E se ti tengo il muso, non ti parlo più. È per dimostrarti quanto mi piaci tu. Io e te giriamo attorno al mondo, il mondo gira intorno a noi. Sono capricciosa, ma non con tutti, sai. Solo te riesco a combinare guai. Ti tengo sulle spine, ti tratto male, ma è il segno che mi piaci e tu l'hai capito già. Io e te guardiamo al futuro e il futuro guarda noi. Lascerò. Saremo insieme noi. Per sempre io sarò la ragazza capricciosa che tu vuoi. Sono capricciosa perché tu vuoi così. Non ti piacerebbe, ti dicessi sempre sì. E se ti tengo il muso, non ti parlo più. È per dimostrarti quanto mi piaci tu. Io e te giriamo intorno al mondo, il mondo gira intorno a noi. Io e te guardiamo al futuro e il futuro guarda noi. Io e te giriamo intorno al mondo, il mondo gira intorno a noi. We'll be right back. sera, mezzanotte. Ci siamo, mezzanotte, pian piano andiamo a concludere questa puntata sperimentale, possiamo dire così. E come cosa è successo? Niente, è il solito che abbia dei volci. Aspetta, vai un po'. No, non ci sei affatto. Vai un po'. E voilà. Eccoci. E voilà. E niente, è giunta la mezzanotte, all'inizio della 25esima ora. Sì. Lo spazio temporale deformato di 25 sì. O'clock sì. Ci ha permesso questa sera di dare i suoi frutti ancora. Catturare questo essere. Boh. Sì, allora, lo dovreste. Ma chi è? Lo dovreste incontrare adesso, sì, perché è uscito di corsa, al solito. E lui fa le sue, non direi nemmeno esibizioni, le sue comunicazioni e scappa, non gli piace la musica che mandiamo. Non parlando la nostra lingua. Non parla nemmeno una parola della nostra lingua, non parla al microfono. Però è vicino a Via dei Volsci, cioè si sente sì. molto vicino a Via dei Volsci. Si sente molto vicino a Via dei Volsci, o almeno la fonetica di Volsci gli piace. Perché è un personaggio che è uscito fuori... già in altre occasioni ne abbiamo parlato, manda degli audio di tanto in tanto, è un personaggio uscito dal tempo, da essenzialmente si è perso, un viaggiatore si è perso nel tempo, sì, non è nemmeno un viaggiatore nel tempo, si è proprio perso, cioè suo nonostante, insomma, il suo discapito non vorrebbe sì, farlo. Chissà se è stato catturato da una deformazione di 25 sì, o'clock, sì. Se è un viaggiatore non lo sappiamo. Sì. Però insomma va in giro con delle vesti, non, lo noterete senz'altro, perché placca bronzea. Sì, sandali di pelle animale, credo. Potrebbe essere per l'animale, però insomma stiamo parlando di un tempo molto remoto, quello da cui proviene. Eh sì, almeno 2-3 mila anni fa. Un corto chitone. Tra l'altro, appunto, rompe pure alcuni luoghi comuni, perché uno pensa appunto un essere puzzolente, insomma, che non si lava. Beh, oddio, no. Vabbè, no, invece no, è molto, invece, malgrado appunto questo suo girovagare con pochissimi bagagli, delle attrezzature che sono, lui ha imparato, cioè questo è il cortocircuito, ha imparato a utilizzare delle apparecchiature molto complicate. Sì, non è che è arrivato con la lira. No, ha imparato, evidentemente era un musico forse anche nei suoi tempi, non sappiamo. Oddio, un cantore. Cioè, da quello che crea, con tutto il rispetto dell'ospite che c'è stato stasera, certo. Ma poi sì. Non lo so, cerca di comunicare, questo è il quanto. E non so se riesce. E fa tutto lui, tra l'altro, va a prelevare, vedete, parla la nostra lingua perché va a prelevare chissà ma dove. Ma per nostra di 25 o'clock. Certo, per nostra di 25. Sì. Vabbè, insomma, chissà che poi in un altro momento, in un altro intervallo, non debba ritornare, ma non lo sappiamo, non abbiamo. Però l'abbiamo notato che a Via dei Volsci, cioè, si è trovato, certo, proprio bene. Il suo agio, sì. Non so, sì. Sarà un volsco? Potrebbe essere un volsco. L'unica cosa, sapete, no, come si fa coi cagnolini, no? Che uno trova un cagnolino per strada e comincia a chiamarlo Dick, Bobby, no? Ovviamente quello non risponde a quello che gli aggrada. E lui sembra che, diciamo, abbiamo provato tanti nomi, perché si gira quando uno dice Velester. Si gira, però non sappiamo se è il suo nome, insomma, almeno questa è una reazione, come si dice? Un riflesso Pavloviano. Bella questa. Vabbè, sì, 5 minuti dopo la mezzanotte, diciamo, siamo abbastanza distrutti. Io non so se mandare un'altra traccia e andarcene. Mandiamo in Nebula, così che dato che beh, abbiamo beh, sì sì sì, dato che quel, cioè per rispettare dalle nebulose del tempo, insomma, ritorniamo a bomba con i Nebula. Per rispettare, appunto, probabilmente cerchiamo di avvicinarci agli intenti comunicativi di questo che andremo a chiamare Velester, ma appunto non abbiamo elementi per dire che sia il nome. Con i Nebula, vabbè, poi vi scriveremo anche quello che abbiamo mandato, All the Way Nebula, che sarebbe la traccia numero penultima. 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, questa è 25 o'clock. Scoccano i 15 minuti dopo la mezzanotte. Le programmazioni in diretta della radio vanno terminando anche per questo lunghissimo 28 di luglio, poi terminato e è diventato affluente del 29. Vita compagnia, la compagna automatica suonata con le sue repliche. Con le sue selezioni musicali. Le programmazioni in diretta riprenderanno domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionali almeno. Questo prevede il palinsesto alle 14 tutta scena cinema, ci sarà Attica Blues oltre la Back Music, la Schina del Sole alle 17, il Mezzedes. I redazionali della radio alle 18, da Bula Rasa alle 20, alle 23 i cuginetti d'apostasia. Dicevamo questo sulla carta poi. È il 29 di luglio. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti. La nostra sfilza potrebbe essere molto lunga in quanto a saluti particolari. A tutti quelli che fuggono, a tutti quelli che arrivano e quelle che arrivano. A chi si alza presto la mattina. Perché quei quattro spicci mica ieri regalano. invitiamo ancora a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Lo potete fare andando sul sito della radio www.ondarossa.info. Ci sono due banner adesso, quello ascolta gli audio di Radio Gap, tornati disponibili. A poco più di 20 anni dalle giornate di Genova del 2001. L'altro banner è il 30 per 1000 a sostegno di Radio Onda Rossa. Cliccateci dentro, sostenete la radio. Noi pian piano ci ricomponiamo, vi lasciamo in nebula e poi ce ne andiamo sotto la luna comunista, under a communist moon. Degli International Noise Conspiracy, la sigla da sempre, o quasi. Finale di 25 o'clock, dai. Let it be.